pigi il verde ora. Ma subito! Te ti addormenti! Pigi il verde, dai! Tutti convocati alle Olimpiadi di Carlo Genta e Giovanni Capuano. L'uscita in tempo dell'Harvey, ma trova il bersaglio non valido purtroppo. Si è galvanizzata anche la canadese adesso, chiaramente. In vantaggio e mette a segno la 15ª stoccata. Arianna Enrigo è fuori dall'Olimpiade. Incredibile. Già il primo assalto mi sentivo distrutta. E se pensi che, voglio dire, mi alleno un anno per questa gara, il primo assalto già ho il fiatone, sono viola in faccia. Vuol dire che ho sbagliato qualcosa. Cosa pensi di aver sbagliato, anche se è presto adesso per farle queste riflessioni, però? Non lo so, ora è difficile trovare qualcosa. Forse per come sono fatta io non ho fatto il quanto basta, ma ho fatto il troppo e questo mentalmente mi ha anche appesantito. Beh, signori, oggi è il giorno delle stelle cadenti azzurre nella notte, quindi oggi per l'appunto alle 3:19 della notte passata, Federica Pellegrini quarta nei suoi 200 stile libero, e di questo ovviamente parleremo. Io e Giovanni Capuano, che è qui con me, abbiamo il massimo rispetto per Federica, quindi condividiamo questo rispetto per un atleta che ha vinto alle Olimpiadi per l'Italia un oro e un argento, 4 titoli mondiali, 7 titoli europei, è la più forte nuotatrice italiana di sempre, ha 28 anni, forse era il suo canto del cigno questa Olimpiade, però merita tutto il nostro rispetto. Merita tutto e non merita quella cosa che sta succedendo da qualche ora e Bravo. Che l'ha portata sui social, poi per carità i social sono un ambiente particolare, hanno il loro linguaggio, hanno tutto. Però a chi scriveva, perché lei ha scelto di non fare questa notte oggi la batteria dei 100 e tanti hanno letto questa cosa come una sorta di ulteriore delusione, rinuncia, qualcuno gli scriveva fai più bella figura, corri 100, e lei gli ha risposto coglione, io non li corro, non li nuoto, vuoi le parole precise? Me ne sono scritte, dovresti dare il buon esempio, non ritirarti nei 100. Risposta da Pellegrini, coglione, mi sono ritirata nei 100 perché mezz'ora dopo la staffetta 4x200 e voglio dare il massimo lì, per la precisione. Comunque, vi aspettiamo. Siamo bravissimi ad abbattere i nostri simboli. 800240024 per le vostre telefonate olimpiche. E voi, se volete, WhatsApp 349-238-6666. Facciamo che oggi usiamo WhatsApp per... come segreteria telefonica per Federica Pellegrini, ma anche per Arianna Enrigo, bronzo, anzi medaglia d'argento alle Olimpiadi di Londra, battuta dalla Di Francisca, che invece è ancora in gioco ed è in semifinale, mentre Arianna Enrigo, che abbiamo sentito poco fa al microfono di Dario Ricci, è stata eliminata. Sentiamo un'altra battuta della Enrigo, poi ci colleghiamo con Dario Ricci che ci racconta tutto. Io è gennaio che mi alleno da sola e ho vinto tutto. Col maestro deve avere un rapporto che va al di là di ogni cosa, perché a questa età, insomma, devi avere fiducia prima nella persona e poi in quello che ti può trasmettere, essere prima un rispetto reciproco. Se quello viene a mancare, puoi essere il maestro più bravo del mondo, ma io preferisco perdere una medaglia d'oro. Cioè, quindi non c'è stato rispetto nei tuoi confronti? Sì. Allora, questa è una storia nella storia della scherma e dell'Enrigo e dello sport. Dario Ricci, il nostro inviato a Rio, ciao. Ciao ragazzi, bentrovati, sono proprio qui nell'Arena Carioca 3, il palazzo dello sport della scherma, 16esimi di finale per la sciabola uomini, tra poco saranno anche Diana, Diego Chiuzzi e Alto Moltano, ma chiaramente il torneo che si interseca con quello del Cioretto, c'è questa storia da raccontare in relazione proprio alle ultime parole, le ultime battute che abbiamo sentito di Arianna Enrigo, che di fatto da gennaio quasi si autogestisce. Perché? Perché c'è stata la rottura col suo maestro Giulio Tomassini, che di fatto è uno dei padri nobili della scherma italiana. Pensate, è stato contemporaneamente maestro di Gambassi, Pezzali e Trillini. Proprio rispetto alla figura della Trillini, questa storia si incrocia perché, come sapete, Giovanna Trillini è la maestra, in questo momento allenatrice, di Elisa Di Francesca, che di Arianna Enrico è la grande rivale. Insomma, se sentite già da tanti protagonisti che di thriller che sta andando in scena qui. Ora, in un ritiro della nazionale nel gennaio scorso a Norcia, Tomassini, legato all'Enrico, ma non in modo esclusivo, come prassi di fatto, appunto, sia nella sua storia sia anche nella scherma, stava affiancando comunque la Trillini nella sua crescita, nella figura come figura di allenatrice, e ha dato in quell'occasione una lezione termistica anche a Elisa Di Francesca. Ecco, sarebbe stata questa lezione a creare la rottura tra la Enrico e Tomassini, perché Arianna ha visto in questa lezione di fatto un tradimento di un rapporto che lei interpretava in modo esclusivo, e da qui questa rottura di questo sodalizio che, se si fa di bene, Arianna Enrico è stata la grande dominatrice della stagione. Certo, numero uno femminile negli ultimi quattro anni. Quindi si può anche vincere senza avere un allenatore, però poi dopo... Però poi chiaramente da un lato puoi accumulare rabbia, da un lato risentimento, dall'altro la volontà anche di dimostrare anche di più di quello che sarebbe necessario. E qui ci riallacciamo alle prime parole che abbiamo sentito di Arianna, no? Questo essere andata quasi in iperallenamento, aver totalizzato l'esperienza olimpica di Rio, che poi partiva anche dalla necessità di riscattare la sconfitta subita in finale proprio contro la sua grande rivale. Sì, perché poi questa è una storia in realtà che parte quattro anni fa, sì. Per chi non se lo ricorda, Enrico Di Francesca fanno la finale per loro, è una finale che vince la Di Francesca nel minuto supplementare per una stoccata. Si rompe un rapporto, un'amicizia, le due non sono più compagne di stanza, c'è sotto una storia umana, perché le stelle che cadono non è vero che non fanno rumore. No, fanno un rumore abbiamo pazzesco, sentito il rumore della Pellegrini che questa notte si è ribellata, ha detto di aver fallito, si è ribellata a chi gli ha detto è questione di testa. Abbiamo sentito l'Enrico era una medaglia sicura della nostra spedizione, era uno di quei bancomat per i quali, insomma, avevamo costruito il nostro pronostico da 20-25 medaglie, speriamo della Di Francesca, sì, certo. però ci è venuto a mancare, e insomma, dopo i giorni della gloria, intanto siamo settimi nel medagliere. Sì, vabbè, Giovanni, non potevi rimanere secondo fino alla fine dell'Olimpiade, adesso non esageriamo, non fare come Renzi. Non potevamo rimanere secondi, siamo settimi, è comunque un eccellente piazzamento. Certo che una medaglia a proposito del discorso di ieri, importante vincere per quelli che vanno con i favori del pronostico, quella di Arianna Enrico era una medaglia su cui contavamo, così come contiamo magari su una medaglia da pallanuoto. Sta vincendo 2-1 con il Montenegro. Qualcuno scrive della Pellegrini, proprio una principessa per la dialettica che usa, da vera nobildonna. Però insomma, la Pellegrini è entrata in questa Olimpiade da portabandiera. Certo. Bisogna dirle grazie per tutto quello che fa. La verità è che da questa notte alle 3:19 in tanti ritengono che sia una delusione, non la prestazione in sé, io non capisco, ma Federica non Pellegrini. Capisco perché, tra l'altro, con il tempo che ha ottenuto avrebbe preso a Londra, avrebbe preso una medaglia d'argento, se non ricordo male. Intanto Dario Ricci l'ha intervistata, poi sentiamo questa intervista, e nel salutarlo per questa prima tranche, poi naturalmente ci ricollegheremo più tardi, hai rischiato di prenderla, Dario Ricci? Ma sì, perché comunque il momento era assolutamente particolare, e va detto che la gara cronometricamente, a vista della stessa Federica, non è stata quella che lei stessa si aspettava. No? La sensazione, l'avete già visto tante volte, era che veramente nuotasse nel fango, per quanto fosse poco fluida. Devo dire che, sentendo poi il parere di tanti esperti, ve ne cito uno che forse un pochino più di altri contro, quella di Novella Calligaris, che qualcosina nella storia del nuoto ha detto, e ha detto, dice, forse se c'è stato un limite, se può esserci stato un errore, è stato il fatto di pensare al terzo posto. Cioè, Federica Pellegrini, per il motore, la storia, la classe, la testa e per quello che è, deve necessariamente sempre pensare al primo. Uh-huh. E quindi probabilmente l'idea di, in qualche modo, tra le tante cose che sono, non sono andate ieri, l'idea che magari si potesse puntare solamente a quel terzo posto, in qualche modo ha spinto Federica ad un... ha fatto troppi ragionamenti nel gestire una situazione in cui semplicemente che è strano per una della sua classe, della sua esperienza, sarebbe comunque, sarebbe comunque strano. Dario, ci sentiamo più tardi, a dopo. Grazie Dario Ricci. Noi mentre diamo questa notizia, tiro con l'arco, Pasqualucci si ferma ai sedicesimi, agli ottavi ci va lo spagnolo Antonio Fernandez. Insomma, non sembra una giornata epocale per gli altri. Sì, anche se in realtà ci sono anche buone notizie, perché ad esempio la pallavolo, no scusa, buone notizie, no, la pallavolo femminile ha perso ancora 3-0 contro l'Olanda, praticamente fuori, tre partite, tre sconfitte, zero set vinti e nove persi. Le buone notizie vengono dal Double Trap, dove i nostri stanno combattendo nelle eliminatorie. Oggi c'è anche, ci sono anche i turni successivi e si stanno battendo con ottimi punteggi. Stiamo aspettando di vedere i maschi della sciabola, la Di Francesca in semifinale l'abbiamo detto, l'Italia avanti 2-1 contro il Montenegro nella pallanuoto. Ciclismo, oggi c'erano le due cronometro, Elisa Longoborghini quinta in quella femminile, vinta dalla statunitense Armstrong, al terzo oro consecutivo in questa specialità. Invece Damiano Caruso 27esimo in quella maschile, ha vinto lo svizzero Cancellara davanti a Dumoulin e Froome. Io sono molto contento per il vecchio Cancellara. Però oggi abbiamo tanto da seguire, alle 18:30 c'è Tatanka, Clemente Russo contro un russo vero, Tishenko, e lo seguiremo, e poi parleremo della canoa slalom, dove c'è un azzurro che oggi potrebbe essere da podio. Allora, adesso siamo in terribile ritardo con le notizie sul traffico. Io vi torno ad invitarvi, 800 24 00 24, numero verde, arriverà tra pochissimo anche il maestro Leo Turrini. Tutti convocati. Tutti convocati alle Olimpiadi. C'è Katy Ledecky, recuperata da Sara Siostrom, e c'è il tentativo di rimonta disperata di Federica Pellegrini sul filo della terza posizione, occupata in questo momento da Emma McKeon in corsia numero 7. Emma McKeon che mantiene però il vantaggio su Federica. Katy Ledecky che invece va a conquistare la medaglia d'oro, Sara Siostrom per la medaglia d'argento, e c'è il terzo posto di Emma McKeon. Federica Pellegrini è quarta, 1:55:18 per l'azzurra, fuori dal podio Federica. E che peccato, che peccato, che peccato. Onestamente non so spiegarmelo, perché ieri 55.4 sembrava di averlo nuotato molto in facilità, soprattutto la seconda parte di gara, e non so, molto, molto strano, non so spiegarmelo neanch'io, ecco. Sembra di vivere in un piccolo incubo, nel senso che, cioè, rispetto a ieri, proprio un'altra cosa in acqua, cioè, non è mai successo. Io comunque sono un atleta abbastanza grande, quindi capisco bene quali sono le mie sensazioni in acqua. Non pretendevo né di vincere né di nient'altro, però almeno di lottare per il terzo posto. Almeno di lottare per il terzo posto. Per il terzo posto. Per il terzo posto. Sono proprio morta, tra virgolette, nel senso che sono arrivata all'ultimo 50 che non ne avevo più. Non ne avevo più. Allora, questo riassunto sonoro della gara, della nostra portabandiera di Federica Pellegrini. Io ho 1,5 miliardi già di messaggi, sono anche telefonate già in onda, Marco e Mauro, 800 24 00 24, e ovviamente ci si divide sull'argomento. C'è chi scrive: la Pellegrini è andata male, ma sempre sono meglio quelli delle cattivi, italiane. Non capisco. Sì, anch'io. Quelli per che quello ti dicono che ha fatto vinto gli anni passati, posso solo figuratevi dire, se rinuncia, ci sono gli sponsor, ormai è tutta immagine sponsor. Bravo, oppure è finita la spocchia della Pellegrini, troppi soldi di pubblicità e troppa arroganza nel dare del coglione a una persona che ha espresso il suo parere, come è accaduto su Twitter. Giorno delle stelle cadenti, Leo Turrini, ciao. Come andiamo, ragazzi? Come andiamo? Vedo che mi segnalate l'esistenza e la persistenza dell'Italia di Maramaldo, l'Italia di Maramaldo, che è sempre pronta quando qualcuno che è stato un idolo finisce nella polvere, a precipitarsi con sommo godimento a calpestare, esatto. L'eroe caduto. Quello che mi avete appena fatto sentire, con tutto il rispetto, è molto triste. Io infatti credo che ci debba essere un rispetto straordinario per una campionessa unica che ha fatto 4 finali olimpiche dei 200 stile libero, che ha reso onore al nostro paese, non voglio dire al nostro sport, con la sua competitività. Certo, io ero lì ieri sera, per voi notte, è stata una grande delusione. Nessuno immaginava una vittoria, perché onestamente la Ledecky è molto più giovane, è di un altro pianeta, l'avevamo detto, però che Federica fosse sul podio, soprattutto dopo le semifinali, era immaginato come qualche cosa di scontato. Ci siamo rimasti molto male, lei più di tutti, però ripeto, a me dispiace di dover constatare, perché ho fatto anch'io un giro sui siti, social, eccetera, dover constatare tutta questa, come dire, quasi acrimonia, no? Allora adesso sì, diventa ma siamo noi quasi cattiveria, siamo noi, Giovanni, siamo cattivi, cioè è una cosa che veramente, sì, Leo, ha poco senso. Tra l'altro, sì, posso, sì, io esprimo un ulteriore motivo di soddisfazione per quello che ho visto ieri sera, che non ha accampato mille scuse, è uscita, certo, ha detto Non ho nuotato male, l'ultima vasca non ne avevo più, Non ne avevo e non ero pronto. Perché così è. No, guarda, è stato dal mio punto di vista. Ma la gente piace di più quelli che escono accampando scuse, eventualmente. Perché sai, uno esce e dice l'acqua era calda, l'acqua era fredda, il rigore, il fuorigioco. Il rigore, il fuorigioco, colpa dell'arbitro. E magari trova anche il popolo che dice aveva ragione lui. Lei che ha detto, ho fatto quello che potevo, poi insomma. Poi ha fatto allora, la gara che ha potuto. È un dispiacere, no? Su questo penso siamo tutti d'accordo, perché al di là del metallo era la medaglia più attesa, la nostra portabandiera, l'ex ragazza che da adolescente era già sul podio ad Atene, no? Era, come dire, un evento annunciato, quindi il senso di frustrazione ce l'abbiamo tutti, ci mancherebbe altro. Però insisto, io l'ho trovata molto decorosa nell'accettazione della sconfitta, ci si rimane male, forse dovremmo convincerci tutti che il tempo ha le sue leggi e non ci si può fare niente. Certo, questo è assolutamente vero, era anche la nostra atleta più mediatica, più esposta, e questo è vero altrettanto. Marco, buongiorno. Buonasera. Grazie per la convocazione. A lei, dica. Dovevate sentire Turrini dopo di me, perché ha detto la maggior parte delle cose che vorrei dire io. Comunque vorrei fare, a proposito Turrini, pare che ci sia un ingorgo sulla A4 direzione Verona, sembra che ci sia la Pellegrini che è ferma sulla corsia di sorpasso. Ci sono la Pellegrini ferma sulla terza corsia, sono rimaste senza benzina, sono più bello, ecco. Adesso cerchiamo di prenderla sul ridere, va sempre bene, ragazzi, stiamo parlando di Olimpiadi di sport, Marco. A parte gli scherzi, vorrei fare alcune considerazioni su Federica, sulle reazioni alla sua gara e alla sua decisione di rinunciare in centola, che affollano il web e le varie trasmissioni di radio televisive. Premetto, io ho 61 anni e da oltre 15 nuoto 3 km al giorno, 6 giorni alla settimana, quindi mi reputo, oltre che un appassionato, anche abbastanza intenditore di questo sport, sì. Non voglio perdere tempo a commentare i vari messaggi, commenti di scherno e compiacimento per la sua mancata medaglia, in quanto è proprio in queste occasioni che gli omucoli e i fancazzisti della tastiera, che sia un cellulare o un computer, danno il meglio, anzi il peggio di sé, criticando, insultando gente che probabilmente nella quasi totalità nella loro vita non ha mai indossato una cuffia e un paio di occhialini, e non ha mai fatto una vasca in piscina, probabilmente a metà vasca si saranno fermati a prendere fiato già stanchi. Quindi, comunque, tra l'altro, io ho avuto modo di osservare Federica fin dagli inizi della sua carriera natatoria, negli anni dal 2005 al 2005, sì. la mia compagna di allora allenava un paio di ragazze che spesso la incrociavano e sfidavano su alcune distanze durante qualche meeting o gare regionali e nazionali. Federica Pellegrini non è mai stato un fenomeno del nuoto, tanto per intenderci tipo Phelps o la stessa Ledecky, che Phelps ha fatto record numero, oro numero 21, cioè il Brasile nella sua storia complessivamente ha vinto 23 ori. Esatto, questi sono esempi, questi esempi sono talenti nati proprio per nuotare. Lei si è costruita negli anni attraverso un lavoro continuo teso a migliorarla tecnicamente, atleticamente, oltre che mentalmente. E ciò le ha permesso di vincere per così tanti anni e di stabilire record mondiali in serie. Ma gli anni purtroppo passano anche per lei. È quello che stiamo dicendo. Ti presenta il conto. Sì, però questa cosa qui, io il non tema sono, è che questa cosa qui non sono particolarmente gli italiani deluso. La prendono come un affronto. Come un affronto. Cioè è bella. Poveri fissacchiotti, questa per voi era la divina. È finita ormai, le bombe non funzionano più e ha rovinato anche la squadra maschile. Questo è un messaggio che mi arriva. Ma sono tanti di questo tenore. Cosa dici? Sentiamo anche Mauro o Mauro. Andiamo in borsa? Mauro. Allora, un attimo per la borsa, Mauro. Mauro? Sì, ciao. Buonasera a tutti. Scusate, sono abbastanza emozionato. Grazie per la convocazione. Di che? No, volevo solo chiedere una vostra considerazione in merito al fatto che, soprattutto negli sport individuali, se abbiano potuto incidere i cambiamenti di orario imposti dalle televisioni. Quindi no, il discorso di nuotare alle 11 mezzanotte rispetto a gare mi risulta che nuotino tutti insieme, Mauro. Cioè anche no, Phelps nuota alle 11 di mattina, mezzanotte, alle 10 di sera. Leo, confermi, no? Non credo possa incidere. No, il discorso degli orari assolutamente, anche perché gli atleti sono arrivati qui, si sono acclimatati. Le finali alle 10 di sera non sono La Ledecky ha corso alla stessa ora della Pellegrini, no? No, da questo punto di vista, ma io guarda, ripeto, Federica mi è piaciuta molto perché non ha cercato nessun tipo di scusa. Cioè io guardavo la finale, sembrava che avesse due pesi di piombo agganciati alle caviglie, quello che è sempre stato il suo pezzo forte, la progressione negli ultimi 75 metri. Non è stato in grado di proporlo, ribadisco, tutti siamo restati lì con la bocca cul di gallina, come si dice, perché avevamo invece un'aspettativa completamente diversa. Io fino al tuffo della partenza avrei scommesso qualunque cifra sulla medaglia di bronzo. Che potesse fare meglio della svedese lo trovavo difficile. Sì, l'oro sembrava... Era già segnato, era già scritto. Veramente sta riscrivendo la storia del nuoto, c'è poco da dire. Leo, ci fermiamo per la borsa, poi subito dopo torniamo. Tra l'altro non c'è solo Pellegrini, le stelle cadenti italiane, l'Arrigo, c'è un altro tema di cui poi parleremo che sta rendendo bollente l'acqua delle piscine del nuoto. Borsa. C'ho 28 anni, se mi sento ancora dire che subisco la gara di testa, tiro un cazzotto a tutti. Boom. Perché lui di esperienza mi batteva, a lui bisognava tirargli la bomba. Colpo secco. Tutti convocati. Tutti convocati alle Olimpiadi. Penso che Federica abbia dato qualcosa allo sport, al nuoto italiano. Rimane un po' di delusione, quello sì, naturalmente, però guardando indietro tutto quello che ha fatto, sono fiera di mia figlia. Questa era la signora Pellegrini, la mamma di Federica Pellegrini. Intanto siamo a metà di Italia-Montenegro, pallanuoto maschile 3-2 per l'Italia, che insomma sta entrando sempre col piede migliore in questo torneo di pallanuoto, mentre nel nuoto si sono concluse le batterie dei 100 stile libero. Federica Pellegrini, come abbiamo detto, non ha preso parte, ma perché tra qualche minuto parte poi la 4x200 e lei ha detto che preferiva dare tutto lì. E l'altra italiana, Erika Ferraioli, non è andata benissimo, 55-20, 26esimo tempo, e non entra nelle semifinali. Ora aspettiamo i 200 misti maschili, dove abbiamo Federico Turrini e poi abbiamo detto la batteria 4x200 stile libero femminile. Allora, i messaggi sono sempre di vario segno e di vario colore. Potete usare, ripeto, WhatsApp 349-238-6666 anche come segreteria telefonica, sia per lasciare un messaggio a Federica Pellegrini che magari ad Arianna Enrico, che è stata l'altra, insomma, l'altra stella che è caduta in questa giornata, no, Leo Turrini? Non ce l'aspettavamo, nemmeno questo, francamente. Lei, la storia dell'allenatore. La grande delusione che patì a Londra, no? Sì. Subendo la rimonta di Elisa Di Francesca in finale e rompendo ogni rapporto con la Di Francesca stessa, ha vinto più di chiunque altra nel fioretto femminile in 4 anni, è arrivata qui per quella che doveva essere una rivincita, una sorta di Ali Frazier, no? Uh-huh. All'italiana col fioretto, perché per il tabellone si sarebbero comunque ritrovate in semifinale, sì, se fossero rimaste in lista, e invece ha perso contro questa canadese. Ragazzi, lo sport, l'Olimpiade in particolare, è fatto anche di queste cose. Provate a pensare appunto a Arianna, 4 anni che aspettava questo giorno. Tra l'altro qui non c'è nemmeno la prova squadra del fioretto, in questa edizione dei giochi, quindi non hai nemmeno, diciamo, la valvola di sfogo di una consolazione collettiva, e ha perso contro una rivale che era tecnicamente portata, considerata molto inferiore. E beh, anche perché questa è il numero uno del fioretto ormai da un quadriennio, Poi c'è tutta la storia dell'allenatore. Adesso lo sport è così. Arianna Enrico aveva vinto 5 delle ultime 9 gare del campionato mondiale. Con Montezemolo. L'hai visto in giro? No. Tra Federica e Enrico, mi fate venire questo sospetto, che siano risbarcati a Rio i due presidenti. Sì. Sta cominciando intanto il match di Clemente Russo contro il russo Tyshenko. Ve lo raccontiamo adesso. 800 24 00 24. Abbiamo Marisa e Nico. Marisa, Tom, buonasera. Io volevo soltanto dire grazie a Federica, e lo dico con profonda commozione per il dispiacere che ha provato lei, non per il nostro dispiacere, perché Federica è veramente da additare a tutti i giovani per l'impegno, per la costanza, per il sacrificio che ha mantenuto sino ad ora. Io le auguro la migliore vita. E chi critica Pellegrini, la Federica, vuol dire che non ha mai praticato uno sport, soprattutto non ha mai fatto sport di squadra, soprattutto non ha mai praticato sport competitivi. Io sono sempre stata una sportiva nel mio piccolo, e so cosa significa avere giornate che si pensava migliori e non lo sono. Certo. Quindi grazie veramente a Federica di tutto cuore, veramente. Però è che c'è una grande invidia in Italia. C'è una grande invidia in Italia. Sei giovane, bella, vincente, esposta mediaticamente. Agli sponsor, sei ricca, fidanzato, sei in televisione, immagino, bello, un sacco di non è di il mio volte. Non è il mio tipo, però immagino, insomma, perdi e sono tutti lì a calpestarti. Credo, a proposito di belli, che ci sia qualche notizia dalla scherma di Aldo Montano. Dario Ricci, eccolo di nuovo. Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua. Montano in pedana contro il tunisino Ferjani, siamo in vantaggio il livornese per 14 stoccate a 11, mentre in forte difficoltà Diego Chiucci, che sulla pedana, praticamente sulla stessa diagonale, eccola intanto la stoccata decisiva di Aldo Montano, 15 a 11, mentre Diego Chiucci, dicevamo, proprio nella pedana in diagonale rispetto a quella di Montano, che ora stringe la mano a Ferjani, che abbandona l'Olimpiade eliminato. Diego Chiucci è sotto 13 a 11. Ancora salto apertissimo contro il vietnamita Buma. O Chiucci è chiamato alla rimonta, mentre Montano va avanti, supera, diciamo, d'autorità con questo primo turno. Chiedo un commento al volo a un amico, ma anche a un collega, scusate, perché qui vicino a me Gian Mario Bonzi, amico, collega e voce della scherma di Autosport. Gian Mario, un rapidissimo commento su Montano che mi è sembrato in palla. Lui dice: se mi alzo bene può succedere di tutto. Sembra che si sia alzato bene. Sembrerebbe assolutamente di sì da questo primo incontro. Ovviamente dobbiamo aspettare già il prossimo turno, dove potrebbe esserci un avversario molto molto forte, l'ex campione del mondo russo Kovalev, che però deve ancora tirare. Dal punto di vista fisico l'ho visto bene, sapete che ha avuto un problema enorme alla spalla, Montano che viene da una stagione fantastica prima dell'infortunio, dopodiché è stato operato alla spalla e quindi c'è un'incognita legata alla sua prestazione fisica, però insomma, il primo incontro è andato bene anche da questo punto di vista. Sì, ecco, certo, insomma, cioè, andato bene, ragazzi, bene, bene, adesso 13-11 ancora sotto Chiuzzi con punti. Comunque, speriamo Chiuzzi. Montano il primo turno l'ha saltato. Leo Turrini c'è al microfono. Abbiamo ospite un altro grande del nostro nuoto come Massimiliano Rosolino. Ciao Max. Ciao ragazzi, ciao. Ciao, senti, stiamo discutendo io, Capuano e Leo Turrini, di questa ondata di critiche nei confronti di Federica Pellegrini, quasi come sul calpestare il mito caduto. Cosa ne pensi di questa ondata di emozioni? No, vabbè, io ho visto diciamo tutto il percorso di queste Olimpiadi, uno, la realtà è che se uno conosce il nuoto conosce bene anche che si lotta contro il cronometro e sotto e contro proprio le proprie aspettative. Sono certo che insomma due mesi fa Federica, una volta fatto 1,54,5, ha creduto come tanti di noi che potesse appunto portare a casa un ricordo importante da questi giochi, però l'Olimpiade è Olimpiadi, insomma vicino a lei ci stavano una campionessa olimpica su 400 stile libero, una campionessa olimpica su 100 delfino, l'australiana ha volato, cioè è ovvio che uno si deve prendere le cose belle e le cose brutte dello sport, però insomma sono 12 anni che disputa finale a questo livello e di certo ha dato il massimo e probabilmente è una condizione di gara di questa, diciamo, di questa portata, era il suo limite, l'ha detto anche lei. Sì, quindi merita comunque per quello che ha fatto tutto. Assolutamente. Merita il nostro rispetto. È un esempio per lo sport, è un esempio comunque per tanti ragazzi che si avvicinano a questo mondo meraviglioso di attività fisica, se vogliamo. Le Olimpiadi riescono poi a canalizzare, a catalizzare migliaia di persone che iniziano poi il loro percorso, dai più piccoli ai più grandi, quindi insomma Fede credo che questo effetto calamita l'abbia fatto e lo continuerà a fare. Allora perché oggi in tanti e poi c'è anche stato insomma Federica Pellegrini a un certo punto anche un po' perso i nervi, ha risposto male sui social, perché in tanti sembrano quasi godere della caduta ed è vero, un simbolo? Allora, ti assicuro che è vero, leggendo i messaggi. Questo è quello che succede, voglio dire, a essere amati dal 50%, e probabilmente ci sta sempre quello che, insomma, quando cade, quando c'è la crisi, diciamo, se la ride, quando vede qualcuno in difficoltà, gioisce. Noi pensiamo a quell'altra faccia, va bene, della medaglia, quelli che hanno entusiasmo, persone che, insomma, hanno diciamo pianto, si sono diciamo dispiaciute. Poi queste sono gare, sono importanti, ma sono gare, rimangono tale gare come tali, non c'è bisogno di alzare un polverone su delle polemiche. Federica sapeva benissimo che rispetto magari a 8 anni fa dove disputava due specialità, adesso ha puntato tutto su 200 stile libero, quindi penso che vada rispettata. Probabilmente non c'è neanche bisogno di rispondere al fuoco, perché purtroppo a un certo punto tra due giorni uno in cassa, poi tanto certo. I fatti rimangono. Lei è stata straordinaria, ha dato il massimo e a differenza di tanti altri sport magari non il cronometro parla, cioè sai, non è che ha detto che siamo in forma e non lo è stata. Davanti a lei sono arrivate tre che fino alla Sjöström erano tre anni che non gareggiava su questa specialità. C'era appunto la Ledecky, che è una delle nuotatrici, è la nuotatrice più forte di tutti i tempi americana, e che dire, quindi io direi che comunque siamo fortunati ad avere una Federica. Sicuramente. Intanto Max, un attimo solo, diamo il finale dell'assalto di Occhiuzzi, Dario Ricci. Eliminato Diego Chiuzzi, 15-12 per il vietnamita Vu, lacrime anche per Chiuzzi a bordo pedana, ragazzi. Grazie Dario Ricci, a dopo. Leo Turrini. Posso fare una domanda, Max? Certo. Ti saluto certo, con grande certo affetto. Perché poi la domanda delle 100 pistole, Max, tu ci sei già passato dopo una carriera ma fantastica. Ma certo, perciò io lo conosco, però io ti dico l'unica cosa aspetta, la domanda è questa, Max, tu cosa faresti dopo questa Olimpiade al posto di Fede? Continueresti o è venuto il momento, come lei ha fatto capire, di cambiare vita? Io continuerei anche adesso a 38 anni, figuriamoci se avessi l'età di Federica, li bastano tutti, capito? Cioè, però la realtà è che uno poi a un certo punto uno deve fare le cose, l'orgoglio aiuta, incentiva, ti carica, però uno deve cercare anche poi di fare quello che uno si sente, perciò magari a mente fredda, se ha voglia di continuare continua, se non ha voglia di continuare farà un passo indietro, però la testa, il corpo ce l'ha, quindi è inutile che pensiamo che sia il contrario, però sono 12 anni che lavora a questi livelli e credo che meriti tantissimo rispetto. Ma senti, un'altra cosa se posso, perché mi interessa molto a livello psicologico. Ma quando uno smette, come hai fatto tu, dopo una vita in piscina, è difficile reinventarsi persona comune? Oppure sì, ci si riesce, insomma, con una certa tranquillità? Io, la differenza mia... La differenza è soltanto una, che io in effetti ho un po', diciamo, fatto un passo indietro da genitore, da adulto. Federica giustamente è molto più giovane e ha potuto e fa ancora il suo mestiere a 360 gradi. Hanno creato uno staff pazzesco a Verona insieme a Matteo Giunta, insieme a Filippo Magnini e tutte le persone che gli sono intorno e la federazione. Quindi voglio dire, io avevo capito che insomma da una parte abbandonavo qualcosa, dall'altra parte insomma ho scoperto il piacere della famiglia, di amplificare le mie conoscenze. Adesso, voglio dire, per tenermi in forma, al di là del nuoto, faccio la corsa e cerco di confrontarmi, adesso in questi giorni, non lo so, con tutti quelli che hanno fatto lo sport al mio livello. Bisogna cercare di fare un passo verso qualcosa di nuovo. Certo, Max, mi resta una domanda da farti. Tu come Federica sei stato un personaggio, un nuotatore molto mediatico, forse il primo nuotatore molto mediatico, molto corteggiato dai media. E ti faccio una domanda sulla scorta di questo messaggio, che un'ascoltatrice che scrive: la sua celebrità causa invidia, e da lì arrivano le critiche. Può essere? Guarda, sai, le cose belle creano in effetti un po' di polemica, voglio dire, se guardavo gli europei di calcio un mese fa, Cristiano Ronaldo praticamente aveva fatto un paio di partite fatte male, poi ha fatto bene l'ultima partita, ha segnato il gol della vittoria, come si dimentica tutto il resto. Sì. Federica da ieri avesse preso la medaglia di bronzo, diventava veramente ancora più incredibile, ancora più la nostra portabandiera. Certo. Cioè non è stata scelta a caso. È ovvio che poi certe volte io dico, se capitasse a me, per qualche giorno incasso, basta, tanto vedi, già c'ho i miei problemi. Mm-hmm. Va bene, Federica comunque avrà la 4x2, non so se oggi ha disputato di 106 litri. No, non li ha fatti. Ha preferito non farli, perciò credo che lei, veramente, negli ultimi 4 anni ha lavorato veramente molto sodo. Forse ci sta, quando c'è persone che ti seguono, lei è seguitissima dai social, mediaticamente è scelta come personaggio per comunicazione. Nella comunicazione tu becchi la persona che ti vuole bene, è la persona che è lì per criticare, non aspetta altro che tu cadi per scrivere che la Pellegrini per scrivere che la Pellegrini fa più la VIP che l'atleta. E quindi ci limitiamo a leggere messaggi molto velenosi che arrivano. Max, ti ringrazio. Grazie a voi, ragazzi. Grazie, Massimiliano. Vado a vedere un po' di scherma. Ciao. Vai a vedere la scherma, che c'è Aldo Montano che tornerà in pedana mentre Chiuzzi è dopo il traffico. Vediamo due aggiornamenti, uno non piacevole, temo. Ancora. Ma basta, Capuano. È una giornata così. Menti, racconta delle bugie. Dai, traffico. Io non riesco a capire come si fa a insultare una come la Pellegrini. Deve fare solo la signora, lei, dirgli non ti curare di loro, ma guarda e insultali! Tutti convocati. Tutti convocati alle Olimpiadi. La Pellegrini può non stare simpatica e su questo non ci piove, ma chi la critica dopo 12 anni, dopo questi 12 anni, non ci ha capito una mazza. Questi alcuni dei vostri WhatsApp vocali, oggi facciamo da segreteria telefonica per Federica Pellegrini, ma anche per Arianna Enrico e purtroppo magari per qualcun altro. Sì, anche per Clemente Russo. Anche per Clemente Era Russo. Un'altra delle grandi speranze delle nostre Olimpiadi. Clemente ci Russo male, ha oggi. Appena perso contro Tishenko. pugile russo. Eravamo nei quarti di finale, categoria 91 kg, ha perso i punti ma in maniera netta, nel senso che i giudici in maniera sostanzialmente unanime hanno dato vittoria al pugile russo in tutti e tre i round. E devo dire, Clemente Russo ha anche finito con un taglio al sopracciglio, quindi con un'immagine insomma che fotografava abbastanza bene la sua sconfitta. Va meglio invece per il Settebello, che è avanti 4-2 contro Montenegro, gara che ieri ci spiegava Roberto Calcaterra, è una gara che difficile, che ci può anche spiegare qual è la prospettiva della nostra nazionale. 4-2 alla fine del terzo quarto. Leo, mi sa che hai ragione tu. Leo Turrini, mi sa che sono tornati, sono tornati. Informati bene, perché sono tornati. Ah, ragazzi, non lo so, insomma, sta prendendo una piega non brillantissima questo mercoledì, che è stato inaugurato dal martedì notte. Però Elisa c'è ancora, lei ha proprio quell'istinto del killer quando è in pedana e poi viene da Iesi come Valentina Vezzali. Pensate che questa è la prima Olimpiade del Fioretto dopo 20 anni in cui non c'è la Vezzali, senza la deputata Valentina. Sì. Io la intervistai ad Atlanta dopo l'argento, lei lì prese l'argento, era talmente furibonda per non aver vinto che disse, beh, insomma, io seconda mai più. E io guardai questa ragazzina marchigiana e dissi, ma la solita mitomane, no? Che alle Olimpiadi gli incontri tanti di mitomane. E dopo ha vinto 3 ori consecutivi, è andata sul podio anche a Londra, tralasciando le imprese a squadre. E Elisa viene da lì, è la stessa scuola, lo stesso DNA, anche se è molto molto diversa come personaggio, e penso che possa regalarci una grande emozione stasera, sempre che quei due non siano tornati. Sì, esatto, esatto. Vabbè, esatto. Che vogliamo. Iesina come Roberto Mancini, peraltro. Nico, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Io non solo ringrazio la Federica, ma per sdrammatizzare vorrei raccontare un piccolissimo aneddoto da medagliato di legno. E quindi per rincuorarla, se ci ascolta, io ho partecipato a un concorso importantissimo che si chiama Quizzone, che Leo conosce bene. Quizzone. No, ma bisogna spiegare, se no non capiscono. È sul mio blog Profondo Rosso che c'è un gioco legato al mondiale di Formula 1 da anni, che si vincono premi strepitosi, cioè cene con Raikkonen, di vodka e i pupazzetti di Montezemolo, queste cose qui. E lui è arrivato quarto, Nico. È arrivato quarto, no, Nico. No, no, secondo, perché il Quizzone è cattivissimo. Cioè io sono fuori giri, così che abbiamo tutti un alias. Il secondo qualificato dell'anno scorso non vince nulla, e quindi vorrei consolare, ora ovviamente è una drammatizzazione della situazione, da medagliato di legno, non c'è né argento né bronzo, ma da primo fregato, diciamo. In classifica voglio dare tutta la mia solidarietà. Tutta la sua solidarietà, ma fa bene, sì. Per ringraziare tanto Federica, anche Leo per l'iscrizione ovviamente, ma Federica in particolare per questi 12 anni splendidi. Poi stiamo parlando di una persona che, un atleta che è quarta a livello mondiale nella sua disciplina dopo 12 anni. Quindi grazie a Federica. Un saluto a Leo. Grazie Nico, raccogliamo e giriamo, così come aspettiamo messaggi su segreteria telefonica. Leo, di che segno sei tu, me lo ricordi? Bello, se lo trovate interessante ve lo dico, ma comunque sì, sì. Sono dei pesci. Sei dei pesci come sono me. Sono dei pesci, anche come la se non ho mai nuotato come bene, come Phelps. Non so se abbiate evocato le sue 21 medaglie d'oro. Questo è un delfino travestito da uomo, perché poi quando cerca di fare il terrestre, cioè la vita di tutti i giorni, voi sapete che ne combina per Carlo in Francia, certo, no? Fuma il nardilè, rolla cannoni, quindi ubriaco, si vedrete schianta che contro i pali. Questi giochi, naturalmente, Phelps, che non è un essere umano ma un delfino, dirà mi ritiro, come disse dopo Atene, dopo Pechino, dopo Londra. Dopodiché lo ritroveranno ubriaco, attaccato al narghilè e tutto il resto, tornerà a nuotare e vincerà anche a Tokyo. Certo. Questo devo dire. Nuota per salvarti la vita. No, ma io ti ho chiesto il segno perché ieri abbiamo fatto fare l'oroscopo a Marco Pesatori, che ben conosci. Una cosa pazzesca. Marco. Pazzesca, sì, ci sono. Ci sei. Ti sto ascoltando rapito. rapito addirittura. Che oroscopo vogliamo chiedere a Pesatori oggi? Ma non quella dell'Arrigo. Chiediamo i sopravvissuti, sì, la di Francesca. Incominciate col dire che sono stato di una precisione. Gliel'avevi tirata. No, non si può dire di uno che fa l'oroscopo, no. Letto le stelle. Avevo detto che comunque la Pellegrini è già così tanto quello che ha dato che non dobbiamo giudicare famelicamente male un quarto posto. Dobbiamo essere felici per il quarto posto, perché comunque è tanto quello che ha dato, che sta dando e che darà. Oltre ad aver portato la bandiera in quel modo, direi così, da star, no? E quindi non dobbiamo essere così, diceva Hegel, che non bisogna essere parsimoniosi né nel dare né nel prendere, però nemmeno l'opposto. Quindi ogni tanto ci può stare anche un quarto posto, non dobbiamo essere così negativi, sempre così famelici. Hai ragione, raccontano loro signori. Ma sì, ma raccontano loro signori. Ma lo facciamo l'oroscopo alla Di Francesca o no? La Di Francesca ha un buon oroscopo, nel senso che è un sagittario con dei buoni transiti, è in buona forma, e quindi la Di Francesca è, io direi sì, c'è. Sì, ecco. Sì. L'accendiamo. Un altro che, ma scusate, ma adesso qui ho un vuoto, direi ho un vuoto spaventoso, ma Montano gareggia? Sì, gareggia, certo. È all'inizio, ma il primo turno. Ad anni cosa ha fatto? Superato il primo turno, è passato. No, perché Montano è un altro che ha una configurazione planetaria eccellente. Cioè, Montano e la Di Francesca astrologicamente hanno il vento a favore. Quindi, hai capito? Poi vedremo se salta fuori, diciamo, quale qualità della medaglia. Comunque il vento ce l'hanno a favore. Fantastico. Invece l'Enrico ha un pochino più di qualche contraddizione. Aveva. Si sono infatti dimostrate tutte le contraddizioni dato che state eliminati in Nescanera. Abbiamo parlato della caduta. È uscita l'Enrico. È uscito di pomeriggio. Infatti abbiamo parlato della caduta delle stelle, Pellegrini ed Enrico. Marco, grazie. Esatto. Alla prossima. Dunque, Montano e Di Francesco sembrano messi bene astrologicamente. Io ho 2 minuti ancora, abbiamo 2 minuti ancora per chiedere a Leo Turrini una pennellata sull'altro argomento di giornata, che ho detto prima ha reso bollenti le acque delle piscine, e sono queste dichiarazioni di contro nuotatori cinesi e russi. Luca Dotto ha detto: quando li guardi in camera di chiamata prima della gara vorresti prenderli a ceffoni, inutile nasconderlo. Sua Maestà Phelps: qui ci sono atleti che gareggiano dopo essere stati trovati positivi per 2 volte, è un giorno molto triste per lo sport. Magnini: il fastidio è chi dovrebbe prendere provvedimenti non lo fa, grande polverone, ma poi sono tutti qui. Il francese Camille Lacourt: dopo i 100 dorso vinti da Xu Yang, ha detto: ma quello lì fa la pipì viola. Insomma, mi sembra ci siano delle rivolte pesanti in acqua. Sì, questa della pipì viola l'ho sentita, l'ho trovata fantastica, devo dire, perché uno dovrebbe anche chiedersi come fa l'accusatore di Su Yang ha fatto la pipì vicino a lui, no? Capito, la qualità cromatica della pipì del cinese. Ce lo siamo detti anche ieri, questa eterna battaglia tra doping e antidoping. Tra l'altro voglio dire una roba commovente, scusate, stamattina sono andato sotto la pioggia su Copacabana, dove c'era Alex Schwarzer che faceva allenamento. Una cosa, devo dirvi, straniante. Noi lo aspettiamo ancora, Leo. Questo ragazzo è ancora qui, con tutto quello che sta passando, ci crede ancora, sta aspettando una sentenza che non arriva. Io lo vedevo camminare, meglio marciare, in mezzo a questi carioche che dicevano: ma chi è sto pazzoide? Perché naturalmente Schwarzer non ha un accredito olimpico, non può accedere in nessun luogo fino a quando non ci sarà questo famoso / famigerato verdetto. Niente, il doping è una cosa bruttissima. Io non so di che colore sia la pipì di Sun Yang, forse come il colore lì della piscina dei tuffi, sì, che è diventata verde, dove si buttano e si lamentano Tania e gli altri protagonisti. Però rimane comunque è difficile, perché come ci siamo detti ieri, se accettiamo il principio uno sbaglio, sei fuori. Allora, allora va benissimo. Altrimenti, altrimenti ci teniamo la legge, la legge attuale e le sue. Accettiamo la legge e le sue applicazioni, per quanto perverse. Leo, grazie. A domani. A domani. Quest'anno per lo sport italiano è una catastrofe. Questa è la lapide. Uno che ha scritto al 349-238-6666 è una catastrofe. Fino a ieri eravamo secondi nel medagliere. Dai, una catastrofe. Ma noi siamo qui e ascoltiamo tutti. Allora andiamo subito col GR e torniamo. Vince Tishenko, si ferma qui l'avventura olimpica di Clemente Russo, si ferma qui con un verdetto più che discutibile e ci dispiace enormemente. Tutti convocati. Attenzione, attenzione, fermi tutti, uscite immediatamente dall'acqua, mollate tutto, pinne, braccioli, salvagenti, accendete Radio 24 e ascoltate i Fuori Posto. Com'era Fili, li ho convinti? Sì, per me andava bene, un ma c'è solo un piccolo problema, non hai spiegato perché le persone dovrebbero ascoltare sto programma, ma di che parla? Ah sì, è vero, c'hai ragione Filippo, aspetta, aspetta. Cari bagnanti, tutti voi almeno una volta nella vita vi siete sentiti fuori posto e noi parleremo di quelli che sono alla ricerca di un posto di lavoro nel cuore di qualcuno, quelli che un posto prima ce l'avevano e ora non ce l'hanno più. E parleremo anche di quelli che invece hanno scelto di stare nel posto sbagliato. E chi lo conduce? Come chi lo conduce? Filippo, io e te. I Fuori Posto con Umberto Alezio e Filippo Roma. Da lunedì a venerdì alle 10 su Radio 24. Oh, aspetta, aspetta, lasciateci i vostri messaggi a ifuoriposto@radio24.it o allo 0246524182 o via sms al 349-2386666. Tutti convocati alle Olimpiadi. Dopo aver sentito la rogna che porta l'astrologo, da buon interista vorrei che facesse l'oroscopo alla Juventus. E questa la giriamo a Marco Pesatone. Non sarà mica un problema. 800 24 00 24, sempre in funzione, la nostra segreteria telefonica, via WhatsApp 349-238-6666, per lasciare i vostri messaggi, in particolare per l'argomento del giorno, la caduta delle stelle da Federica Pellegrini ad Arianna Enrigo. È sempre in funzione anche quella, eh? Io ti leggo un messaggio che è arrivato durante il GR al 349-238-6666. Abbiamo detto Clemente Russo sconfitto. Clemente, altra finale, stella che cade. Altra stella che cade, e scrive Roberto: che delusione, Clemente Russo fuori subito, ritorna a buttare la pasta. Sì, così. Così, tanto per. Stelle che cadono, anche quelle delle ragazze a pallavolo, terza sconfitta per 3-0 e sono praticamente fuori già dal torneo olimpico. Paolo da Bologna, buongiorno. Buonasera ormai. Dica. Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera. Dica. Niente, io intervengo perché forse sono un po' fuori dal coro, ecco, da quello che ho ascoltato fino ad ora. Sì, meno male. Nel senso che la Pellegrini, senz'altro, grande nuotatrice. Io poi sono non sono uno sportivo, ecco, non ho conoscenze come i vostri ospiti a riguardo, quindi sono, diciamo, uomo del popolo, ecco, diciamo così. Però mio figlio, che ha frequentato la piscina qui a Bologna, sì, presso una società sportiva, 4-5 anni fa arrivò la Pellegrini. Lui faceva nuoto agonistico al tempo, sì, erano tutti ansiosi di vedere questa grande nuotatrice, però nel momento in cui lei si presentò, non dico che li evitò, però li, diciamo, si defilò, ecco, si defilò, sì, forse sì, il termine più, sì, appropriato, sì, in questo momento, sì, ci rimasero un po' tutti male. Sì, ecco. Quindi lei spiega in questo modo una certa ondata popolare, non nel caso specifico, ma in generale per questo comportamento da star, oggi c'è una buona parte degli italiani che insistono nello scrivere, ad esempio, la Pellegrini è pronta per nuotate intorno all'Isola dei Famosi. Questo è un WhatsApp appena arrivato. Sì, oppure che non esce mai con eleganza da nessuna situazione. C'è chi fa un paragone con Deborah Compagnoni. Qualcun altro, però, ho perso il messaggio, diceva: e allora perché una come Tania Cagnotto non si è mai attirata tutta questa antipatia? Non lo so, spiegatecelo, però io continuo a non capirlo. A proposito di Clemente Russo, ancora Luca, questo mi spiace, ma se l'è cercata, come si fa a dire per mesi io arrivo, vinco l'oro, significa portarsi una sfiga pazzesca. E oggi è una giornata così, è la giornata delle stelle che cadono, no? E tanti stanno lì e godono. Allora, vorrei parlare, abbiamo un prezioso illustre ospite in linea, vorrei sentire, far sentire anche a lui, ma lo sa già, come si è presentato Usain Bolt, superstar di queste Olimpiadi. Allora, questa è la traccia sonora. Il video, invece, andate a cercarlo perché c'è bella Bolt, conferenza stampa, che si presenta in conferenza stampa con 8 ballerine di samba, vestite da ballerine di samba, o meglio svestite da ballerine di samba, i musicanti con i tamburi, e a un certo punto si mette a ballare pure lui. Diciamo che è diametralmente opposto Usain Bolt rispetto all'altra superstar di questa Olimpiade, che è Michael Phelps. Giovanni Bruno, direttore di Sky, buonasera. Buonasera, ciao. Lo ricordo perfettamente, le immagini sono eloquenti. Non guardavo molti io, però, in quel caso. No, nemmeno, no. Io neanche, non so Capuano, non so gli altri. Francamente era troppo vestito. Sì, maglietta gialla, pantalone lungo nero, se non ricordo male, ma il resto era proprio interessante. Però ballava bene, se si muoveva. Tu dici? Anche sì, visto ballare meglio. No, fantastico. Beh, ma sai, questo è essere personaggi. Cioè, ma certo. Non ci vedo né Clemente Russo, né la Pellegrini e neppure Arianna Enrico, se vogliamo parlare delle stelle che cadono. Ma se poi gli andrà male, per qualsiasi motivo arriverà argento, bronzo o peggio, medaglia di legno, io sono sicuro che tanti che oggi dicono che Bolt è un personaggio, un grande, divertente, la mossa... Diranno che è un clown, che è finito, è bollito, è pronto per l'isola dei famosi o di quello che volete, cose che stanno dicendo oggi della Pellegrini. Sì, direttore. Ma, lo so, ma ragazzi, cioè, la Pellegrini sono 12 anni che è al vertice. È chiaro che ci stanno alti e bassi, è chiaro che io dopo la semifinale, quando l'ho vista che discuteva, che aveva scelto persino la corsia numero 3 perché lei mirava, cioè, ti giuro, se io ieri mi mettevo a giocare qualcosa avrei giurato su un secondo posto addirittura. Quanto è vero, Dio? Sì, per me se la giocava con la Sjöström. Assolutamente sì, per la sua serenità, per la sua leggerezza, per la sua bellezza, per la sua tranquillità, per il suo essere maturo. Purtroppo non è andata, è come capita. Qui c'è la differenza tra, ecco, Bolt, Phelps, il fuoriclasse e il campione. Esatto. Questa è la grande differenza. Esatto. Cioè, l'Edeki, il primo che mi parla di stanchezza, non so perché i nostri sono sempre stanchi, ma comunque il primo che mi parla di stanchezza è assurdo, perché l'Edeki ha gareggiato un po' di più delle altre, no? Phelps è sceso adesso in acqua, eccolo lì, sta sui 200 misti. Ogni giorno scende almeno 2, 3, 4 volte, no? Giusto? Sì. È stanco? No. Da quanti anni gareggia? È dal 2000 che gareggia. Sì, e meno male che gareggia, perché tra un'Olimpiade e l'altra si dedica ad altri passatempi, insomma. Sì, vabbè, ma quello, il calumetto della pace lo chiamavano, esatto, no? Sì. Vabbè, ma per essere tranquillo, sereno, rilassato, vedere il mondo blu, no? Perché sì. Il sta sempre in piscina. Oh, fate voi, guardate sempre voi la striscia che c'è nella piscina, nella sola. Per allenamento, giorni, ore e mesi. Beh, vai fuori di testa. Federica per un anno aveva deciso di fare il dorso dopo Londra, perché ha detto almeno guardo fuori. almeno guardo il cielo. No, era un peccato, direttore, ma questa onda anti Pellegrini come la leggi? No, è perché è troppo esposta mediaticamente, perché può essere antipatica, può essere spocchiosa secondo alcuni. Ma sì, ma quello è il suo carattere, quello è, non francamente, anche lì io mi dispiace, perché comunque è gente che arriva alle Olimpiadi, ci ha fatto 4 Olimpiadi sempre in finale, va rispettata. Poi obiettivamente quest'anno non ha fatto nulla. Io posso comprendere prima di Londra che c'erano state tutte le sue storie d'amore, metti, togli, fai, e Marin sopra, e Magnini, e questo e quell'altro, e le sue battaglie con la Manadou, e cambia allenatore, vai dove devi andare, che era a Parigi, poi rientra, poi va a Nizza, poi va a Verona. Cioè, è chiaro che tutto questo andando mediaticamente comporta una forte antipatia, però la realtà, lei è una ragazza deliziosa, ve lo dico proprio con la sincerità più possibile, è deliziosa, è simpatica, gradevole, è chiaro che sotto gara c'è un minimo di tensione, però anche qui le differenze le fanno i fuoriclasse e i campioni. Lei è una grandissima campionessa, è la donna più conosciuta in assoluto, perché ora come ora la conoscono tutti, è come criticare Tomba, sì. Puoi criticarlo per i suoi comportamenti, puoi criticarlo per tante altre cose, per la paletta, per come correva in macchina con la macchina dei carabinieri, va benissimo. Beh, però la realtà, mettilo in mezzo con gli sci e piedi, è quello che ha vinto, è indiscutibile. Certo. Stesso discorso per la Pellegrini. Sì, certo, ma io sono d'accordo con te, non mi spiego appunto questa onda popolare per cui l'antipatia per le sue famose, certo, queste storie qui. Direttore, invece voglio farti sentire un'altra cosa che è uno degli argomenti di giornata, quello che rende le acque non solo verdi ma viola, bollenti. Accese. Des sérieux doutes, plus que des doutes sur ceux qui sur celui du 200 crawl là, Sun Yang, il pisse violé. Dunque, breve estratto, Pipi Violet si capisce chiaramente, questo è Camille Lacour, il francese, che dopo aver perso i 100 d'orso, se l'è chiaramente presa con i francesi, in particolare con Xu Yayu, che dicendo, ma questo qui, ma fa la Pipi Viola, ma li vogliamo controllare sti cinesi? Mark Horton, australiano, 400 stile libero, contro Sun Yang. Aveva detto cose pesantissime, facendo chiaro e esplicito riferimento al doping, ma il più titolato di tutti, proprio Michael Phelps, è andato giù duro, fuori dallo sport quelli che hanno barato. Ci sono atleti che gareggiano dopo essere stati trovati positivi per due volte. È un giorno molto triste per lo sport, queste le parole di Phelps. Quell'acqua non è solo verde e viola, ma è bollente, direttore. Sì, allora, è un discorso di, permettetemi, di regole e sanzioni. Faccio una domanda a voi. Ci avete capito qualcosa? Chi resta a casa e chi può andare? Se ci sono stati dati 2 anni, se poteva fare un'Olimpiade o non poteva farla? I recidivi o no? Cioè, nessuno ci ha capito nulla. Russi dentro e russi fuori. Poi devono decidere, prima il CIO, poi deve decidere sul dossier vada. Poi le federazioni, poi decidere una. Poi c'è il comitato etico con il figlio di Juan Antonio Samaranch Junior. Ovviamente c'è un medico e un rappresentante degli atleti. Io non ci ho capito più. Sai cos'è che io ho capito benissimo? Io ho capito benissimo due cose. La prima è che forse per la prima volta c'è una presa di coscienza degli altri atleti, anche questa voglia di rompere un po' il muro di omertà, perché quando tu, Michael Phelps è uno dei due grandi pilastri su cui si regge questa Olimpiade, l'altra è Bolt, e quando Phelps dice quelle cose, insomma, è importante che si esponga, ricordiamoci in passato quanti giravano la testa dall'altra parte. L'altra cosa che ho capito è che il CIO, che dice agli atleti ma abbiate il fair play almeno nelle dichiarazioni, non dite queste cose, e in un certo senso ha bisogno che il teatrino non si smonti. Verissimo, no, questo è verissimo, è super vero. Uno, perché c'è un'alzata di tantissimi, dalla Cour a Phelps, che chiaramente ha una cassa di risonanza superiore. Nel passato c'era stato solo Paula Radcliffe, che aveva tirato fuori un cartello durante le gare, quando c'era, adesso non mi ricordo quale russa, tanto per cambiare, gareggiava, dici non voglio gareggiare con le dopate. Poi diciamo, è stato il signor Tamberi, è uscito fuori con le cose di Schwarzer, non dimentichiamolo, anche lì botta e risposta e via di seguito. La realtà è che io continuo a dire, se ci fossero delle regole e sanzioni certe, allora qua si eviterebbe tutto questo pandemonio. Però direttore, io non credo che il problema sia chi sbaglia una volta deve star fuori. Io non credo che però sia quello che hanno in testa gli atleti. No, ma non credo sia quello che hanno in testa gli atleti che oggi protestano. No, ma è fuori discussione, perché in questo caso non dovrebbe gareggiare nessuno nelle corse di ciclismo. Cioè, se vai a prendere l'ordine di partenza, praticamente corre solo Craven, non so, che questo l'ultimo che è arrivato oggi nella cronometro individuale maschile, personaggio fantastico, è andato giù qua, se gli davano una graziella era la stessa cosa, era magnifico. La realtà è che la sanzione definisce un regolamento, o il regolamento definisce la sanzione, perché tu non puoi dire chi ha beccato 2 anni, chi avrebbe stato beccato una volta, attorno al discorso di Zakarin che nel 2009 era stato trovato positivo, ma questo ormai dal 2009 adesso le hanno controllato 1500 volte, il risultato giusto perché lui possa gareggiare, e lui non può gareggiare. Allora il Meldonium sì, non gareggia la Sharapova e l'Efimova che è stata beccata 2 anni, più il Meldonium gareggia? Certo, e questo allora ti fa scatenare, diciamo, il dito, il braccio, diciamo, l'ombrello della ragazza americana, e le dichiarazioni di Phelps, i fischi del pubblico e tutto il resto, e poi mi piangi pure sul podio. Ma obiettivamente è ridicolo questo fatto. Allora, se tu dici che ha preso 2 anni, un anno di tranquillità, di controlli precisi e poi può gareggiare, bene, se viene beccato un'altra volta, a casa. Casa per sempre. E questi sono 2 anni. Chi becca 4 anni perché le cose, a casa. Cioè, allora qua ci sono le sanzioni, per cui anche gli atleti sono sotto controllo da questo punto. Ma anche lì ci abbiamo tutto un mondo nascosto, tra virgolette, di controlli Cina ed altre nazioni, si era parlato anche di Kenya e tante altre cose, e dove andiamo a finire? Perché qua bisogna poi tutto quanto arriva alla WADA, la WADA ha tirato fuori un dossier, al signor Sun, per cui si sono arrabbiati tutti quanti. Ha avuto pochi mesi di tra virgolette di punti interrogativi ed è ritornato lì e fa la pipì viola. Infatti allora Mark Horton, l'australiano che ha corso con Sun, ha detto: io non ho rispetto per chi si dopa, ma è inedita comunque questa presa di posizione. Poi ti dirò, Giovanni, se venissero messe delle sanzioni, come dici tu, un po' più reali o realistiche, vero? A quel punto il giochino del doping, che porta anche denari a chi ne fa uso, diventerebbe un po' più rischioso. Cioè, io rischio, certo. se mi conviene anche economicamente, prendo 2 anni, sto fermo 2 anni e poi torno a gareggiare, tornano gli sponsor, Gatlin Docet, no? Se tu introduci, metti la pena draconiana la prima volta che ti beccano, come propone Michael Johnson, metti alla seconda volta che ti beccano, e allora comincia a non essere più conveniente. Poi però tu devi anche allargare il fatto, perché come ha vissuto Lance Armstrong, se parliamo il re di tutto questo, ha vissuto anche con la corruzione. Chi è che dava i soldi all'UCI per le maghe? Ecco, poi dobbiamo estirpare anche il concetto corruzione, perché chiaramente il doping ha vissuto molto sul doping di Stato e molto sul doping a livello corruzione. Vedi la Vindiac, che ha tutto quello che era la vecchia IAF, almeno vecchia per modo di dire, perché parliamo di 2 anni fa, e tutto quello che ha permesso di far esaltare il potere russo nella famosi laboratori di Sochi inesistenti e laboratori di Mosca inesistenti. Sì. Cioè, allora tu devi mettere doping, soldi, corruzione. Certo. Allora se incominci a lavorare così, e bisogna mettere delle sanzioni durissime, perché solo in questa maniera, cioè, il ciclismo è diminuito un pochino quando a un certo punto venivano buttati fuori dalle squadre e non guadagnavano più soldi. Certo. Con una certa dose di ipocrisia anche da parte di chi gestiva le squadre, lasciami dire. Anche perché sai perfettamente che chi fa uso di doping chiaramente ha dei consigli, tra virgolette, dei medici delle squadre. Sì. Vai a prendere i direttori sportivi, sono sempre innocenti. Vuoi che non lo sai che c'hanno tutti i tempi nelle tabelle? Cioè, a un certo punto, ma come se ne sono accorti, per esempio, di come parliamo sempre di chi ormai nella squadra di Armstrong, quando Andrew camminava in salita che non era mandato, la moglie che ha telefonato al marito dicendo: ma quando non ho mai visto correre così in salita, ma che è successo? E quello cacagliava un pochino, tartagliava, dice: non lo so, mi sono allenato bene, ma mi faccio il piacere. Sì. Allora devono darlo anche a Dan Craven, che hai citato prima, direttore. Un'ora 27 minuti e 47 secondi per i suoi 54 chilometri. Fabian Cancellara, che ha vinto, ci ha messo 25 minuti in meno. Sì. Ecco. No, ma quando, guarda, eravamo qui con Francesco Pieratozzi a vedere la corsa, è partito lui per primo, una maglietta fuori dai, dai pantaloncini anteguerra, una maglietta così, la barba in faccia, dice, ma sembrava un postino svizzero, diciamo dei vecchi tempi, con quelle biciclette pesanti, è la bici normale, sì, sì. Cioè, tu ormai la tecnologia, cioè, è micidiale, manubrio giù, manubrio su, le ruote lenticolari, le ruote a razze, quanto pesa, 6,9 kg, 7,1 kg, eccetera, eccetera, si presenta questo, ma è un mito, Craven per me è un mito. Grazie direttore! Grazie a voi! Ciao Giovanni Bruno, direttore di Sky, borsa subito! Il mito che si ripete, la leggenda che si rinnova, è una Michael Phelps che forse si commuove come mai l'avevamo visto, vince un altro oro individuale ed è l'oro numero 20! Tutti convocati. Andiamo a vincere ancora! Sabato Mondo! Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Tutti convocati alle Olimpiadi. Volevo dire questo alla Pellegrini per consolarla. Dalle mie parti a Brindisi si dice che quando la volpe non arriva all'uva dice che è acerba. In dialetto si dice quando la volpe non arriva all'uva dice che è agra. Ecco, pura invidia italica. Bravo. Sempre in funzione la segreteria telefonica via WhatsApp per i messaggi, per le stelle cadute, Pellegrini. Oggi Rigo. È la notte delle stelle cadenti. È la notte delle stelle cadenti. Allora, smettetela con l'ipocrisia. Sono tutti dopati. Bisogna liberalizzare il doping. 349-238-6666. Questa può essere la via opposta ed estrema alla, alla radiazione, alla, alla prima volta poi, che ti beccano. Poi un altro, dai. È un argomento su cui discutere. Dai, mica... Fausto Coppi andava avanti a pane e formaggio. Su, dai, siete vaccinati. Ma insomma, sappiamo, altri tempi. Sappiamo che tenevi in tasca la simpamina, certo. Fausto Coppi, che così come Girardengo prima della, della gara si beveva 10 rossi d'uovo, 10 bianchi d'uovo, cosa non normalissima per che non facciamo insomma tutte le mattine. Aggiornamento invece, abbiamo un finalista canoa slalom K1 uomini, la finale è dalle 21:15, Giovanni De Gennaro, che aveva fatto col miglior tempo tutti i turni preliminari, in finale ha fatto un po' più fatica ma si è qualificato con il nono tempo sui 10 che entrano in finale, 95 e 99, qualche imperfezione però è in finale ed è uno dei talenti emergenti di questa disciplina, poi abbiamo modo di parlarne. Alessandro da Udine. Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera. Grazie per la convocazione. Ma guardi, solamente una considerazione sul doping. Io volevo dire questo, che ho visto con favore le proteste degli atleti che hanno che hanno insomma protestato nei confronti di coloro che sono stati ammessi nonostante avessero fatto uso di doping, perché questo dimostra in qualche modo che l'ambiente è sano, perché se c'è una persona che non rispetta le regole e l'ambiente reagisce, vuol dire che l'ambiente è sano, cosa che invece non si può dire, secondo me, in passato per quello che è accaduto nel ciclismo, quando venivano sorprese delle persone, degli atleti, anche Pantani ad esempio, per uso di doping, non c'era questa reazione dell'ambiente che sarebbe la reazione che ipotizzabile, cioè nel momento in cui c'è un ambiente sano e viene sorpresa una persona che imbroglia, che non rispetta le regole, tutto l'ambiente dovrebbe mentre lì ci sono stati abbiamo visto invece, dei casi, abbiamo trovato dei casi individuali come quello di Simeoni, no, che provò a ribellarsi ad Armstrong in qualche modo a il primo pentito del ciclismo Armstrong e venne brutalizzato in corsa. Questo deve far molto riflettere su come è l'ambiente, perché se c'è un ambiente che si ribella e che vede, che individua colui che non rispetta le regole come un imbroglione e quindi lo attita come tale, vuol dire che l'ambiente in qualche modo è sano. Se questo non avviene, vuol dire che tutti hanno qualcosa da nascondere e quindi questo dovrebbe far riflettere, ma soprattutto nel ciclismo. Questa è la bella notizia di questa Olimpiade, l'abbiamo detto prima, è la prima volta che si espongono così tanti atleti di primo livello. Poi c'è l'altra parte, l'altra faccia della medaglia, che secondo me è un po' più discutibile, cioè questa cosa per cui gli viene loro risposto abbiamo bisogno che usiate il fair play anche nelle dichiarazioni, come per dire, per cortesia. Infatti, bravi, non rompete le scatole, ecco. perché di questi abbiamo bisogno, in particolare cinesi e russi. Oh, Matteo Tagliariol, ciao. Matteo. Ciao a tutti. Come stai? Bene. Enrico meno, uscita anche Occhiuzzi non benissimo. Io ho avuto montagna. Situazioni simili in passato, non alle Olimpiadi, che a me, insomma, ne ho fatta una, è andata bene, però se mi è capitato in gara di Coppa del Mondo di arrivare da favorito e di perdere subito. Cosa succede? Io penso che sia, si possono trovare mille scuse, però alla fine penso, per quello che riguardava me almeno, era una questione molto psicologica. A me è capitato nei mondiali di Catania del 2011, che poi ha vinto Paolo Pizzo, era scritto, tra virgolette, che li avrei vinti io, e erano mesi che ero in formissima fisica, formissimo allenamento, formissima dappertutto, venivo da una stagione di Coppa del Mondo, avevo vinto un sacco. E niente, ho perso il primo, non mi ricordo se il primo assalto, sì, perso subito. Un po' quello che è successo all'Enrico, che ha fatto molta fatica nel primo assalto, poi è caduta negli ottavi di finale. Se non avessi perso il primo, probabilmente avrei perso il secondo. Cioè, il punto è che secondo me, quando arrivi, cioè, quando scatta qualcosa di sbagliato, è come quando scatta qualcosa di giusto, no? Che nessuno ti ferma. Sì. Quando scatta qualcosa di sbagliato, è molto difficile uscirne. Si può lavorare, io ho lavorato per anni dopo con un mental coach a riguardo, ci sono delle tecniche per diciamoci uscire dallo stato negativo, però comunque è molto difficile. Molto difficile, e poi tra l'altro è uscito questo retroscena che tutti conoscono, Enrico, Di Francesca, sappiamo bene come non siano esattamente amiche dopo la finale di Londra di 4 anni fa, quella finale fratricida che premiò la Di Francesca l'ultima stoccata al tempo supplementare. Da lì hanno rotto i loro rapporti, l'Enrico ha rotto il rapporto con il suo maestro, e proprio perché dava una mano alla Di Francesca sostanzialmente, quindi si conferma che il peggior armonia. Nemico ma è il tuo compagno di squadra, se... Io non posso dire, loro erano migliori amiche, che era altrettanto strano secondo me, perché comunque, nel senso, io ho avuto un po' di amici nell'ambiente schermistico, però insomma è sempre un po' difficile perché avere il migliore amico, perché ovviamente quando ti ci ritrovi contro è un po' difficile tagliare completamente i rapporti, poi riprenderli improvvisamente quando uno vince e uno perde. Per quello che riguarda il maestro, io ovviamente non so quello che è le questioni personali e interne, però insomma il rapporto col maestro è molto personale. Se lei sostiene, cioè se un maestro lavora con due atlete al vertice mondiale, c'è la possibilità che scattino delle gelosie, è naturale. Perché quindi... il rapporto col maestro è più personale che lavorativo, secondo me. Sì, sì, sì. Quindi è una dinamica che può essere normale. Può essere che in squadra non c'è Fioretta squadra in questa occasione, però in squadra si possa non essere particolarmente uniti. Ma è capitato anche a Vezzali, Trillini, Grambassi, eccetera, di non essere particolarmente uniti. No? È capitato. Poi bisogna anche, insomma, essere dei professionisti, secondo me, soprattutto per la gara a squadre, e cercare di mettere da parte queste incomprensioni. A me è capitato di essere in squadra con degli atleti a cui volevo molto bene, e mi è capitato di essere in squadra con degli atleti con cui invece non mi trovo bene. Però la prestazione schermistica, secondo me, deve andare al di là di quella umana. Cioè, alla fine, soprattutto per la gara a squadre, si sta tutti lottando per la stessa cosa, e penso che, insomma, loro lo sappiano bene, quindi vabbè, in questo caso non ci sarà la gara a squadre. Certo, in questo caso non ci sarà la gara a squadre. Anni 28 sia Enrico che Pellegrini, secondo me, secondo te, a quell'età, dopo una delusione, come in questo caso per entrambe, cosa pensi? Vado avanti? Beh, sono due sport differenti. Il nuoto, secondo me, ha una longevità forse un po' minore della scherma. 28 anni per la scherma è metà carriera, ecco. Adesso magari non metà, però nel senso, dal punto di vista di Coppa del Mondo si possono ancora fare 5-6 anni tranquillamente. Io dico, venivo dalla spada, dove ieri quello che è arrivato secondo aveva 43 anni. Sì, cui vabbè, e comunque anche se si guarda la Vezzali, se si guarda Montano, insomma, certo, arrivano tutti intorno alla soglia dei 40. Poi, sai, sta a ogni singolo atleta decidere. Io anche adesso mi trovo in questa situazione qua. Io purtroppo ho saltato questa Olimpiade, adesso ho 33 anni, vorrei puntare alla prossima dove arriverei a 37. Quindi ovviamente si può fare, però sai, devi lavorare molto di più. Infatti la valutazione adesso la farò, diciamoci, di anno in anno, non più come quando avevo 20 anni che la facevo di 4 anni in 4 anni. Grazie Matteo, bocca al lupo. Crepi il lupo. Grazie davvero. Grazie. Matteo Tagliariolla. Oh, intanto Clemente Russo se l'è presa, non ha digerito la sconfitta nei quarti di finale, viene riportato un suo virgolettato in zona mista dopo il match, dove sono gli esperti, avete visto cosa è successo oggi, anche chi non capisce niente di pugilato ha visto che avevo vinto nel secondo round, ho messo a segno dai 7 ai 10 colpi, lui mi ha toccato solo di striscio e poi dal 2012 in poi è ricominciato lo schifo di prima, del resto i giudici sono uomini, ricordiamo che era contro un russo, ha perso contro un russo, Clemente Russo, e poi ha detto ancora e ora mi incazzo con stupidi ex pugili che fanno i commentatori. Sa con chi ce l'aveva. Bello carico. Anche se non Clemente Russo, anche se non è andato bene sul ring. No, a me, io devo dire, onestamente, visto il match, lo stavo seguendo mentre eravamo in onda, soprattutto il terzo round mi è sembrato nettamente a favore del Russo. Il secondo, non certamente per Clemente Russo, però evidentemente. Però se dice così, lui l'ha letta diversamente. Approfondiremo. Riccardo da Rimini. Sì, salve, buonasera. Buonasera. Salve. Io no, volevo parlare della questione del doping, perché è una cosa che, cioè, quando sento fare certi discorsi veramente faccio fatica a stare calmo. Cioè, su Armstrong, per esempio, cioè, adesso viene fuori, è venuto fuori che era dopato, eccetera, ma bastava guardare una delle qualunque gare che faceva, i tempi in cui vinceva tutto, come andava in salita rispetto al fisico che aveva. Cioè, anche una persona che non capisce una mazza come me di ciclismo si rendeva conto che era, cioè, era totalmente topato, ma dalla testa ai piedi. Ci vogliono le prove, però le prove, ecco, sono arrivate in seguito con il cataclismo. Però, cioè, che sia venuto fuori un giornalista che abbia detto no, ma queste prestazioni mi sembrano sospette, non, questo non è mai successo. Perché no, scusatemi, parlate di società, parlate di atleti. Però Riccardo, perdonami, oggi ad esempio di Froome si è molto discusso, oggi intendo in questi anni, le sue frullate, il numero della potenza espressa, il numero dei battiti del cuore, sono state dette cose, forse si è alzata anche un po' l'asticella nella tolleranza zero da parte di tutti, dell'opinione pubblica, probabilmente con Armstrong... si è rimasti un po', era una storia particolare, veniva dal tumore, c'erano forse mille motivi anche ambientali, anche mafiosi, di comportamenti mafiosi di Lance Armstrong, di cui adesso conosciamo tutto, ma poi lui si è sempre difeso con durezza nei confronti degli attacchi, perché c'è stato chi ha messo in dubbio le sue prestazioni e lui è sempre stato durissimo contro questi. Adesso è un'altra storia. Abbiamo in linea il più grande cuoco del mondo, che si chiama Massimo Bottura. Buonasera, chef. Buongiorno, buonasera, non so che ora sia lì. Qua, no, qui è sera. Sera. Qui è quasi ora di cena, abbiamo deciso di farci male. Sono più o meno le 8. Allora, guarda, qua in cucina ci sono ai di cuochi che stanno mondo arrivando. Andrea Bertone è atterrato stamattina alle 5:50. Già in cucina pronto per la cena di stasera, e poi è arrivato qua nei prossimi giorni a vedere, a portare. C'è un'energia incredibile. Un'energia incredibile in questo ristorante a 5 stelle che si chiama Refettorio Gastromotiva. Ci spieghi che cos'è? Sì. È un'evoluzione del quello che è successo all'Esposizione Universale di Milano dell'anno scorso, no? Sì. Quindi abbiamo portato 65 tra i più grandi cuochi del mondo a cucinare gli avanzi dell'Expo e a fare, praticamente a immedesimarsi nelle nostre nonne, delle nonne, delle nostre nonne. Ma dove? Non in una soup kitchen normale, in una mensa normale, ma in una mensa piena di arte, di bellezza, di design, di cultura. Perché abbiamo capito che tutto, che queste persone, queste anime fragili, no? hanno bisogno di sentirsi, di ricostruire la loro dignità, cioè di sentirsi a proprio agio. Cioè la bellezza e l'arte non è solo ad appannaggio di chi ha, ha tutto, i ricchi, ma di tutti. E questo come siamo riusciti a farlo? Grazie alla sensibilità degli artisti, dei designer, degli architetti. Abbiamo creato dei posti incredibili e in un anno abbiamo fatto Milano l'esposizione universale. Pensate che questo esempio ha fatto passare la legge alle due più importanti cucine del mondo, la francese e quella italiana. I due governi hanno passato la legge antispreco dopo questa esperienza. La Casa Bianca ieri, parlando, mi hanno chiamato dalla Casa Bianca, il vice direttore della Food Bank di Washington, dicendo che stanno parlando di questa esperienza, raccontando a tutti questa esperienza. Ieri sera c'era Marco Balic, l'organizzatore delle Olimpiadi, quello che ha aperto tutto, no? La cerimonia di inapertura. Certo. Eravamo io insieme a lui in questo parco per i bambini, un piccolissimo parchettino per i bambini, a dondolarci sull'altarena per decomprimere la tensione di 55 giorni di lavoro, perché sono voluti 55 giorni, con dei turni dei ragazzi brasiliani che lavoravano in 50 di notte e 100 durante il giorno per poter rendere possibile un parco come questo. C'era l'artista più importante brasiliano che ci ha fatto l'ultima cena, no? Lui lavora con i prodotti locali, quindi cacao, zucchero oppure spazzatura, e ricostruisce le grandi opere della storia con questi prodotti, per raccontare che si apporta sulla storia dell'arte, ma li propone nel futuro attraverso un cervello Troppo facciamo fatica a sentire Massimo Bottura, ma abbiamo capito tutto quanto, e non possiamo che farti complimenti, non possiamo fare altro che farti complimenti. Sai, guarda, ci sono i miei ragazzi qua che sono venuti a fare le ferie, le nostre ferie, perché l'osteria è chiusa, sono venuti a fare le ferie qua a San Paolo, sono entusiasti. Quindi capisci l'energia che c'è? Me la posso. Guarda, me l'hai trasmessa tu, ma anche leggendo di questa questa esperienza potevi immaginarmela. Ecco. Grazie, voi Massimo. Voi dovete vedere i visi di questa gente. Cioè, le prime 10 persone. Grazie Massimo Bottura, purtroppo non abbiamo problemi di audio dal Brasile, comunque avete capito che razza di lavoro stanno facendo nel refettorio Gastromotiva, che si trova a Rio e che segue il refettorio Ambrosiano di Milano, che è l'esperienza che ha seguito l'Expo. Avete capito un anno fa. Chi sono i clienti in questo caso di questi chef superstellati. Cosa dobbiamo lanciare, Giovanni? Allora, lanciamo il Melli. I know I could lie, but I'm telling the truth. 'Cause wherever I go, I'll be looking for you. Some people try, but they can't find the magic. Others get down on their knees and they... Adesso Slodi, se l'attacco di Slodi è salvato dall'occhio di Gennaro, la palla però se ne va. Non poteva che essere lei a finire. 25-20, con la partita è terminata, insomma ormai l'Italia è in un momento difficile, mettiamola così. Giovanni deve stringere i tempi, andare, ultima porta e poi via, sì, nella parte finale ha migliorato, finale c'è! Janovic per Bergulian, sono in due su di lui, il tiro viene deviato, la palla in mano a Tempesti, 10 secondi dunque per l'Italia. L'Italia che chiude con il pallone in mano e può dirsi con gusto e divertimento in testa alla classifica del proprio raggruppamento, avendo battuto anche il Montenegro, il tris del sette bello. Sì, eccola la 15ª stoccata. A segno subito, ci ha messo 10 secondi di questa seconda manche per chiudere l'assalto. 15-10 il successo di Lisa Di Francesca sulla cinese Liu. Questo è il riassunto sonoro delle cose che sono successe oggi, luci e ombre. Luci stanno per succedere, luci che arrivano sulla Di Francesca e ombre, come abbiamo detto, sulla Errigo. ombre sulla pallavolo femminile, luci sulla pallanuoto maschile che alla alla terza vittoria in testa alla classifica, sta giocando davvero molto bene. Oggi l'avversario era duro. E poi c'è la canoa slalom, no? Di cui hai parlato prima. Ora 21:15 ci sarà la finale, ci sarà anche il nostro Giovanni De Gennaro. Salutiamo, abbiamo qualche minuto. Sì, Daniele Molmenti, campione olimpico di specialità a Londra 2012. Daniele, ciao. Ciao a tutti, buonasera. Il nostro Giovanni De Gennaro, che era stato perfetto nell'inizio della manifestazione, in semifinale ha fatto qualche imprecisione, qualche errorino, però è dentro col nono tempo. Ho letto da qualche parte che è il talento emergente di questa disciplina. Ma sicuramente è un atleta che è cresciuto moltissimo negli ultimi anni, ha preso questo posto olimpico, gliel'ho lasciato volentieri, ecco, perché lui stava crescendo, io ero verso un declino, diciamo, quindi è stata giusto così. È partito molto bene nella qualifica e adesso in semifinale ha pagato alcuni errori. Ma può essere da medaglia o servirà aspettare Tokyo? Ma il percorso ha dato le sue caratteristiche, adesso ha fatto degli errori secondo me banali, secondo me diciamo di nervoso, doveva un po' rompere il ghiaccio nel nuovo percorso della semifinale, che sarà lo stesso della finale. Ha davanti dei ragazzi più giovani di lui che fanno numeri incredibili, ma devono chiaramente farli un'altra volta nella manche della finale. Secondo me lui è alle carte per giocarsi i primi 5 posti, poi nello slalom diciamo che vince quello che sbaglia meno, è brutto guffare contro gli altri, però insomma in Olimpiade è facile che i favoriti possano saltare ed è facile che uno come lui possa approfittare di questo momento per avanzare in posizione. Sì, noi vincemmo già una medaglia abbastanza sorpresa, se non ricordo male, con Ferrazzi nel 92, venuta fuori un po' contro pronostico. Comunque ore 21:15, da quello che ho capito non è solo uno sport di fisico, di muscoli, c'è molto di testa. Anzi sì, c'è tantissima tecnica, considera che in un percorso come Rio l'acqua che viene pompata, questa canale artificiale può cambiare le onde di 5-10 centimetri continuamente, quindi bisogna essere molto veloci a cambiare tecnica per essere pronti a qualsiasi cambiamento dell'acqua, quindi tecnica, velocità di reazione, la testa chiaramente è quello che ti permette di essere completamente concentrato. Diversi problemi nei campi di gara acquatici a Rio, Daniele? Sì, noi siamo in un bacino, diciamo in altura, in un bacino controllato e regolato con il cloro, come fosse una piscina, quindi diciamo abbiamo meno problemi di altri, però i nostri cugini dell'acqua, diciamo dell'acqua ferma, della velocità o del canottaggio, hanno avuto diversi problemi. Oggi quelli del vento diciamo non si possono controllare, ma quelli dell'inquinamento è chiaro che ci sono dei problemi a Rio, problemi comunque comuni tutte le grandi metropoli del sud del mondo, diciamo. Grazie Daniele, torniamo a sentirci. Buona grazie. Serata, forza Daniele. Italia, forza i nostri ragazzi. Forza. Detto dalla medaglia d'oro di 4 anni fa. Di 4 anni fa, non che hai sentito cosa ha detto? Io ero in fase calante, ho lasciato volentieri il mio passo olimpico a Giovanni De Gennaro. Non è andata bene nemmeno nella 4x200. Federica Pellegrini, aspettiamo l'ufficialità, ma la nostra staffetta è fuori, è arrivata sesta nella sua batteria, dovrebbe essere 12esima addirittura. Su 16 tempi, Federica Pellegrini 1:56:48 è stata la migliore tra le quarte frazioniste della sua batteria, però l'Italia è arrivata davvero lontanissima dalle prime. Che vuoi fare Giovanni Capuano? È proprio il 10 di agosto, notte di San Lorenzo, quella delle stelle cadenti. Ragazzi, torniamo domani con tutti convocati alle 14, con tutti convocati alle Olimpiadi alle 18. Grazie a Claudio Schiattone, nostro autore, Leonardo Sirigato, Lorenzo Rotella in redazione e Pietro Accorte in regia. Ciao! Siete voi che avete fatto diventare antipatica la Pellegrini. Ci avete rotto i coglioni ieri, la divina. E poi... Tutti convocati. Ci vediamo domani. Enjoy!